Cacciatore di libri di Alessandra Tedesco. Riccardino è l'ultimo romanzo di Andrea Camilleri con Montalbano protagonista, pubblicato da Sellerio a un anno dalla scomparsa dello scrittore. Pubblicazione postuma decisa dallo stesso autore. Un romanzo che Camilleri aveva scritto fra il 2004 e il 2005, poi l'aveva ripreso in mano nel 2016, lasciando la stessa trama ma modificando la lingua, perché nel corso degli anni il vigatese, questa lingua appunto inventata, si è evoluta. In libreria trovate dunque il romanzo nella versione finale, ma se volete c'è anche un'edizione speciale che comprende entrambe le versioni, quella del 2005 e quella del 2016. Riccardino è un romanzo pirandelliano, con Camilleri che entra proprio nella storia e compare come l'autore e che dialoga con Montalbano, personaggio dei romanzi, ma anche con Montalbano, personaggio televisivo. L'autore pretende di indirizzare le indagini e telefona anche a Montalbano perché, insomma, vuole chiudere in fretta il caso. È una telefonata esilarante in cui Camilleri dice sostanzialmente «Tu stai vivendo questa storia, ma la sto scrivendo io» e Montalbano, piccato, replica: «Quindi io sarei il pupo e tu il puparo?» E così l'autore fa notare come a volte in passato Montalbano ha preso il sopravvento e ha voluto inserire nel testo monologhi interiori impossibili da sceneggiare per fare sostanzialmente le scarpe al Montalbano televisivo. Insomma, è veramente un gioco divertente questo fra l'autore e i due Montalbano, degno di un autore e di un maestro come Andrea Camilleri. Il caso specifico su cui deve indagare il commissario è l'omicidio di tale Riccardino, che è un giovane direttore di banca. E allora sentiamo l'incipit del romanzo, letto da Maurizio Esposito. Il telefono suonò che era appena rinasciuto a pigliare sonno. O almeno a così gli parsi. Dopo ore e ore passate ad arrammazzaresi a matula d'intra al letto, le aveva sperimentate tutte, dalla conta delle pecore alla conta senza pecore, dal tintare da ricordaresi come faceva il primo canto dell'Iliade a quello che Cicerone aveva scrivuto al comincio delle Catilinari. Nenti, non c'era stato verso. Dopo il quosque tandem Catilina, nebbia fitta. Era una botta d'insonnia senza rimedio, per chi non scascionata da un eccesso di mangiatina o da un assuglio di mali pinseri. Addrumò la luce, tagliò il orologio. Non erano ancora le 5 del mattino. Di certo la chiamavano dal commissariato e doveva essere capitata qualche cosa di grosso. Sì, su sì, senza nessuna prescia per andare ad arrispunneri. Aveva una presa telefonica magari al lato, al comodino, ma da tempo non la doppirava per chi si era fatto persuaso che quella piccola camminata da una camera all'aucia, in caso di chiamata notturna, gli dava la possibilità di liberarsi dalle filinie del sonno che si ostinavano a restargli impiccicate nel cirivedro. «Pronto!» Gli era nisciuta una voce non solo arragatata, ma che pareva magari impastata con la codra. «Riccardino sono!» Fici una voce che, al contrario della so, era squillanti e fistevoli. La cosa l'irritò. «Ma come minchia si fa a essere squillanti e fistevoli alle 5 del mattino?» E inoltre c'era un dettaglio non trascurabile. Non conosceva nessun Riccardino. E c'è un altro libro di Andrea Camilleri uscito proprio in questi giorni. Si intitola Acqua in bocca ed è scritto insieme a Carlo Lucarelli, pubblicato da Minimum Fax. Probabilmente questo titolo vi risuona già nella testa. Ebbene sì, perché Acqua in bocca in realtà era stato pubblicato nel 2010. Ora è uscita una nuova edizione con la grafica voluta dagli autori. E in questo caso la grafica è importante perché si tratta sostanzialmente quasi di un gioco fra Camilleri e Lucarelli, che hanno fatto incontrare i loro personaggi seriali, sia Salvo Montalbano e Grazia Negro, ma l'hanno fatto in un modo molto divertente, attraverso dei bigliettini, dei pizzini, delle lettere che si sono scambiate. Ma ce lo facciamo raccontare meglio naturalmente da Carlo Lucarelli, che è in collegamento con noi. Carlo, allora, com'era nata l'idea di Acqua in Bocca, di far parlare i vostri due personaggi seriali? Beh, dunque, l'idea è nata perché ci sarebbe piaciuto, ovviamente sarebbe piaciuto molto anche all'editore, giocare assieme, io e Andrea, con i nostri personaggi, inventarci un giallo a quattro mani. Siccome era impossibile per me scrivere un giallo a quattro mani con Andrea Camilleri, che a parte essere molto impegnato, poi cosa gli dico ad Andrea? Oh, riscriviamo questo capitolo, non va bene, l'ha scritto male, ci mancherebbe parlare con un maestro. E lui ha avuto l'idea di fare invece un romanzo epistolare. Cioè, Grazia manda dei materiali, delle lettere a Salvo Montalbano, e Montalbano le risponde con degli altri materiali. La cosa buffa è stata che all'inizio io ho mandato una bella lettera di carta intestata della questura, firmata Grazia Negro, che chiedeva informazioni su un caso scottante. E Montalbano mi manda una letterina con su scritto: grazie, no, non ti posso aiutare. E quindi ci sei rimasto malissimo, hai detto ok, vabbè, questa cosa non si fa più. No, ho chiamato Camilleri, gli ho detto: senti, se non volevi scriverlo, beh, bastava dirlo, insomma. E lui mi ha detto: aspetta. E dopo un po' mi è arrivato un pizzino dentro un canolo, scritto a mano da Salvo Montalbano, che diceva: grazie, ma sei matta? Un'indagine così difficile, insomma, a chiedermela attraverso la carta intestata. Scambiamoci materiali in maniera più clandestina. Io gli ho mandato un cavaliere di tortellini, e da lì è iniziata questo scambio di cose, no? Proprio di oggetti. Ecco, quanto è durato questo scambio di messaggi, di lettere, di bigliettini e anche di cibo, a quanto pare, a distanza? Beh, tanto, perché tanti anni, perché all'inizio abbiamo cominciato a scriverlo, poi piano piano ci siamo fermati, poi ognuno faceva altre cose, poi c'è stato un lungo periodo in cui in qualche maniera ci eravamo dimenticati del progetto, poi l'abbiamo ripreso, finché alla fine, continuando a rimbalzarci, no? Come giocando a tennis, no? La palla da una parte e dall'altra, un giorno mi ha chiamato Camilleri, mi ha detto: senti, qua la dobbiamo finire, ho avuto un'idea per chiuderla, posso scriverla? E gli ho detto: ma certo. E così abbiamo chiuso, però è durato parecchi anni. Ecco, che cosa si dicono sostanzialmente Grazia Negro e Montalbano? In che modo riescono a interagire? Beh, stanno indagando su un omicidio che è un omicidio particolarmente complesso, no? Una persona che è stata uccisa, poi ci sono dei pesciolini rossi lasciati sul luogo del delitto come segnale. Insomma, un caso abbastanza complicato, che ha a che fare sia con Bologna, perché è avvenuto a Bologna, ma anche propagini molto importanti a Palermo, che ha a che fare con persone di Palermo. Poi ovviamente entrano dentro complicazioni, istituzioni, insomma tutte quelle cose complicate che noi scrittori di noir mettiamo nelle nostre storie. E loro indagano uno da una parte e uno dall'altra fino ad incontrarsi poi sul luogo del finale del nostro giallo, fisicamente tutti e due assieme. In mezzo abbiamo messo altri personaggi, a un certo punto arriva Coliandro ovviamente, poi arrivano i personaggi di Salvo Montalbano. È stato anche un bel gioco come crossover, no? Come si dice in gergo. Ecco, in questa riedizione di Acqua in Bocca i lettori possono vedere proprio le cose che avete scritto materialmente, anche il bigliettino che era all'interno del cannolo sporco di ricotta e tutte queste cose qui. È un modo per il lettore anche di vedere una sorta di backstage di quella che è stata la costruzione di Acqua in Bocca? Sì, sicuramente sì. Noi ci siamo divertiti a fare questo proprio, a trovare dei materiali che facevano nascere il capitolo. Io un giorno sono a Rimini, mi sembra, vedo per terra un volantino di una mostra di pesci tropicali. Siccome il volantino dietro è bianco, penso: ecco qua, questo è perfetto. Grazia in questo momento si trova lì, ha trovato quel volantino e scrive una cosa a Salvo Montalbano. E così l'ho fatto. Ecco, è veramente un backstage, una sorta di metalibro, no? Fatto di materiali. Questa riedizione fatta così, con i materiali, che li puoi vedere, puoi capire, insomma, cosa succedeva anche a noi e ai nostri personaggi. Questa è proprio l'edizione ideale. E grazie Carlo Lucarelli per averci parlato di Acqua in Bocca, questo romanzo epistolare scritto con Andrea Camilleri e che ora Minimum Fax ha appena ripubblicato, riportando appunto i biglietti originali che i due scrittori si sono scambiati negli anni. Tra l'altro, questo libro era nato da una sorta di jam session letteraria nata sul set del documentario video Acqua in Bocca a quattro mani, prodotto da Minimum Fax Media nel 2005. Documentario in cui Andrea Camilleri dava anche la sua visione sui libri gialli. Negli ultimi 30 anni il giallo considera il delitto un elemento scatenante ma non determinante ai fini del racconto. Oggi non è tanto il chi ha ucciso che interessa in un romanzo giallo, ma il perché è stato ucciso. Questo perché è stato ucciso uno e non chi ha ucciso fa sì che il romanzo giallo esca fuori completamente dallo schema attrito del giallo per diventare un romanzo qualsiasi, senza possibilità di catalogazione, perché tutto il contesto, cioè a dire il perché, diventa fondamentale alla pari dell'elemento scatenante. E dopo le parole di Andrea Camilleri ci fermiamo, una breve pausa, poi parleremo dell'ultimo romanzo di Andrea Vitali che è dedicato proprio ad Andrea Camilleri. A chi posso chiedere un prestito per comprare un'auto nuova? A noi. E per ristrutturare casa? Sempre a noi. Con Poste Italiane puoi accedere a un'ampia gamma di prestiti personali per realizzare i tuoi progetti. Perché non abbiamo mai smesso di dare risposte ai tuoi bisogni. Scopri le offerte su poste.it o all'ufficio postale. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. I prestiti BancoPosta sono prodotti di finanziamento collocati da Poste Italiane S.p.A. Patrimonio BancoPosta ed erogati da Compass Banca, Deutsche Bank, Findomestic Banca e Intesa San Paolo. Il cacciatore di libri. Un uomo in mutande è il nuovo romanzo di Andrea Vitali con protagonista il maresciallo Maccadò, romanzo pubblicato da Garzanti. Questo fa parte, diciamo, del ciclo dei romanzi con Maccadò, che racconta però, diciamo, la sua prima fase a Bellano, il suo arrivo dalla Calabria con la moglie Maristella. Quindi, insomma, non siamo negli anni 30, Maccadò non ha già una famiglia numerosa, ma è il 1929. Il maresciallo, appunto, è arrivato da poco a Bellano, sul lago di Como, che lo ricordiamo è sempre la vera protagonista dei romanzi di Andrea Vitali. Andrea, allora, come mai ultimamente ti stai dedicando un po' a questi prequel nei quali ci fai appunto conoscere Maccadò e la moglie che lentamente iniziano ad apprezzare Bellano, perché all'inizio l'impatto non è esattamente felicissimo? Beh, sai, mi hai un po' rubato la risposta. L'idea mia era proprio quella di tornare indietro, quindi abbandonare un po' la famiglia Maccadò, già numerosissima, già ben radicata nel paese, e raccontare invece, attraverso una serie di episodi, dei casi abbastanza particolari, l'impatto di questi due giovani sposi che dalla Calabria giungono, tra l'altro all'interno di una cornice meteorologica abbastanza particolare, giungono sulle rive del lago e quindi avviano un processo di conoscenza del paesaggio, non solo naturale ma anche umano, che li sta aspettando. Questa cosa mi piaceva, l'idea di farla attraverso il racconto di fatti abbastanza, diciamo, particolari. Sottolineo che non sono casi criminali, sono però quei casi che identificano in maniera abbastanza netta il vivere, diciamo, in provincia o in periferia, che permettono al Maccadò in prima istanza, poi di riflesso, diciamo, a sua moglie, di entrare in contatto con questa piccola comunità di lago. Io questa miniserie l'ho cominciata tempo fa con nome d'arte Doris Brilli, proseguita con certe fortune, adesso è arrivato il momento di Un uomo in mutande e si concluderà, per una ragione ben precisa che, se vuoi, poi ti racconterò più avanti, prossimamente, con la quarta e ultima puntata, chiamiamola così, che definisce l'inserimento pressoché completo dell'intera famiglia Maccadò nella comunità bellanese. No, però non puoi promettere una cosa, poi magari non ce la racconti, anticipacela subito, scusami. Ma ben volentieri. Si è trattato, diciamo, di un problema di calcolo aritmetico, di calcolo, diciamo, fisiologico, vorrei dire. Ti spiego. Le paturnie, chiamiamole così, anche se sono malinconie, nostalgie, dolori veri e propri di Maristella Maccadò nei primi due romanzi, anche in questo in maniera particolare, sono legati al fatto che non ha ancora messo al mondo il primo dei sei figli che i due vogliono avere entro la fine del decennio dei 30. È vero, e questa cosa la fa soffrire parecchio, insomma, sia lei che il maresciallo. più lei, perché sai, il maresciallo è, come dire, distratto anche dai suoi doveri di comandante di caserma, mentre lei, la povera Maristella, che io ho compatito nel corso di queste storie, è sola in casa, non ha ancora solide amicizie, patisce anche le condizioni del tempo, insomma vive una condizione di malinconia, di nostalgia, di preoccupazione, soprattutto teme che non riuscirà ad adattarsi, ad ambientarsi in questo nuovo ambiente. Quindi, per farla breve, io, per risolvere le sue malinconie, avrei gradito che mettesse al mondo il figlio, il primo figlio, al termine di un uomo in mutande, chiudendo quindi in bellezza questa storia. Non mi è stato possibile perché, ahimè, il primo figlio è già nato nella serie dei romanzi ambientati negli anni 30 e per una questione, come dicevo, fisiologica, matematica, per farlo nascere in questo romanzo le avrei dovuto dare una gravidanza di 15 mesi. È una cosa, quindi, è una cosa obiettivamente possibile. Abnorme, sì, è più come dire legata alle gravidanze degli elefanti, credo, che non a quelle degli esseri umani. E per questa ragione ho dovuto immaginare un'ulteriore storia che portasse alla data precisa, già segnalata in un precedente romanzo, alla data precisa in cui il primo Maccadò, Rocco Maccadò, nasce e porta la felicità nella famiglia. Eh sì, anche perché effettivamente i tuoi romanzi, tra l'altro, sono pieni di personaggi, alcuni hanno più rilievo, altri sono solo di passaggio. Mi sono sempre domandata se tu effettivamente tieni delle piccole schedine sui singoli personaggi, anche quelli minori, per ricordarti che cosa hai scritto degli stessi, perché poi magari ritornando ai romanzi successivi devono essere coerenti. Dunque, sarò sincero, spesso e volentieri dimentico quello che alcuni personaggi, soprattutto quelli cosiddetti minori, hanno fatto, detto, e quindi devo fare un po' riferimento anche alla memoria storica del mio editor, che mi è di grande aiuto, diciamo, in questo senso. Peraltro, a fronte, diciamo, di questa situazione, diciamo, ci sono situazioni particolari di personaggi che non ti abbandonano, cioè personaggi che, nati magari per occupare un piccolo spazio in una storia, diventano talmente forti, talmente presenti, diciamo, nella matita con la quale scrivo, che non vogliono essere abbandonati. Ecco, dicevamo già prima che i casi che deve affrontare il maresciallo Maccadò non sono proprio casi criminali. Diciamo che i tuoi romanzi sono delle commedie con dei piccoli misteri, spesso ci sono alcuni equivoci, anche in questo Un uomo in mutande c'è qualche equivoco, e diciamo subito che questo romanzo si apre con una classica scena di adulterio. Un uomo torna a casa prima del previsto, la donna è a letto con il suo amante, quindi lo deve far scappare in modo rocambolesco, lasciando, tra l'altro, dimenticando il portafogli. Questo è un elemento fondamentale perché poi ritornerà nel romanzo. Quindi quest'uomo scappa per strada e quindi è in mutande. Viene avvistato dal ragazzo che viene un po' considerato lo sciocco del paese, questo Salvatore Chitantolo, che da ragazzino aveva avuto un incidente in barca, quindi era rimasto un po' con delle capacità cognitive forse limitate. Tra l'altro, alcuni paesani vorrebbero addirittura farlo rinchiudere da qualche parte. Eppure questo personaggio di Salvatore Chitantolo io l'ho trovato tenerissimo, perché alla fine sembra essere quello che ha lo sguardo più lucido sulla realtà, paradossalmente. Sì, non posso che concordare sulla diagnosi che hai fatto di Salvatore Chitantolo, sono pienamente d'accordo. È estremamente funzionale allo sviluppo della storia, che parte, se vogliamo, con una faccenda piuttosto banale, diciamo la storia di Corna. Ma la sua figura, oltre che per le ragioni che tu hai perfettamente raccontato, mi serve anche per riabilitare un po' la puntata Misfatti e Signora Misfatti, perché in quasi tutti i romanzi l'appuntato, come dire, fa un po' la figura del pettegolo, lui e anche sua moglie sono raccoglitori di pettegolezzi, di voci che vanno a carpire nei bar, nei retrobottega, eccetera, voci comunque utili a definire particolari situazioni. Sono due complici che collaborano al buon funzionamento, diciamo, della caserma. Però in questo caso invece mettono in campo una umanità che prima non si era rivelata. I due sono privi di figli, destinati a non averne perché sono ormai in là con gli anni, e la figura di Salvatore Chitantolo è, come dire, il bersaglio sul quale, nel quale loro riversano, diciamo, questo, questa potenzialità, diciamo, di affetto e di amore che non hanno potuto dare ai figli che non hanno avuto. Tant'è che appunto l'ha puntato Misfatti, che raccogliendo la prima confessione di Salvatore Chitantolo si impegna a tener duro, diciamo, su questa linea, a dare credito a questo soggetto che invece dalla maggior parte dei compaesani viene in un certo senso disprezzato. Tu l'hai detto bene, alcuni addirittura spingono affinché il podestà lo ricoveri in un manicomio o istituto di cura. Il Misfatti invece non molla, diciamo, su questa linea, e l'insistenza dell'appuntato servirà anche a convincere il maresciallo Macadò che tutto sommato c'è qualcosa di vero, c'è qualcosa che ancora non si sa, c'è qualcosa su cui impostare un'indagine che peraltro non è criminale, è unicamente, diciamo, un percorso per arrivare a definire l'identità di questo uomo in mutande, perché poi non bisogna dimenticare che nel corso della storia, giusto per intorbidare un po' le acque, di uomini in mutande ne compaiono tre, ma uno solo è quello che obiettivamente, diciamo, è colpevole di tutto quello che accade. E infatti, perché all'inizio vediamo per esempio che c'è anche la levatrice di Bellano che viene trovata sostanzialmente quasi letargica, non parla, qualche contusione, insomma non si capisce che cosa è accaduto in quella notte. Un uomo in mutande, la levatrice che è stata leggermente ferita, bisogna capire, insomma, quali sono questi misteri. Ecco, Andrea Vitali, i tuoi romanzi sono sempre calati nella storia, negli anni 20 o negli anni 30, si rifanno anche ad episodi storici realmente accaduti. Per esempio, in questo romanzo c'è il personaggio di Fusagna Carpignati che fonda il fascio femminile a Bellano, ma c'è soprattutto la questione della redenzione igienica. Tu alla fine del romanzo riporti un articolo proprio dell'epoca. Che cos'era questa redenzione igienica? Beh, la redenzione igienica era il titolo altisonante che il podestà di allora, in realtà e in verità, diede a un progetto di risanamento del paese per quanto riguarda la rete fognaria e l'acquedotto. Progetto che naufragò perché alla fine dell'illustrazione del tutto il podestà chiese, diciamo, l'intervento anche economico dei capifamiglia bellanesi. E lì è crollato tutto, cioè gli ha chiesto soldi. Praticamente. Non avevano nessuna intenzione di cacciare soldi, già ce n'erano pochi, di cacciare soldi per sostenere un lavoro che sarebbe stato, che avrebbe dovuto essere a tutto carico dell'amministrazione comunale. Quindi naufragò. Peraltro voglio, come dire, rassicurarti e rassicurare chi ci ascolta che nel corso del tempo la rete fognaria e l'acquedotto bellanese è stato sistemato. Va bene, su questo non abbiamo sicuramente alcun dubbio. E allora grazie ad Andrea Vitali, ora in libreria con Un uomo in mutande, i casi del maresciallo Ernesto Maccadò, pubblicato da Garzanti. Grazie Andrea. Grazie a voi, buon lavoro. E anche per oggi è tutto, grazie al settore tecnico che ha supportato il montaggio di questa puntata del Cacciatore di Libri. Vi ricordo che se volete potete seguirci sui social, in particolar modo su Facebook, la pagina ufficiale Il Cacciatore di Libri trattino Radio 24, ma anche su Instagram come Cacciatore di Libri senza l'articolo Il. Una buona lettura da Alessandra Tedesco.